collega Luigi Tronca, che sta nell'altra aula, che è titolare dell'altro insegnamento dell'organizzazione delle strutture comunitarie. Allora, poiché questa è la primissima lezione, se non sbaglio, di tutto il corso di laurea, e poiché le nostre due materie, grandi di natura sociologica, sono in alternativa l'una all'altra, cioè ovviamente un percorso, poi il suo corso, stavamo pensando se non fosse utile, che anche sui laurea, che è allora abbiamo già pensato che sia utile prenderci un momento, insomma un quarto d'ora, 20 minuti in maniera molto estemporanea per presentare a ciascuno di noi il proprio corso in maniera tale che abbiate comunque una panoramica di quello che verrà fatto, di quello che verrà detto e delle tematiche che verranno trattate. Dopodiché, come vi dicevo testè, le due materie sono in alternativa, quindi potete scegliere l'una o l'altra, però visto che siamo anche in pochi e visto che questo percorso è peraltro pionieristico, diciamocelo pure, siete i primi voi a frequentarlo, non un corso di sociologia quanto il corso di governo d'emergenza, e siamo noi i primi a farlo, insomma sperimentiamo fino in fondo, vediamoci il tempo per fare una cosa che veramente non si fa. Allora, dunque, anzitutto benvenuti, poi con quelli che riguardano il corso ci conoscete meglio e ci daremo anche il tempo per conoscerci. Allora, io tengo questo insegnamento che si intitola, come ripeto, Sociologia delle catastrofi e dei traumi culturali. È un corso di sociologia, diciamo, in linea generale, inquadrato quella che si chiama sociologia dei processi culturali, cioè quell'ambito, diciamo così, teorico ed empirico dello studio sociologico di tutto ciò che è cultura, in buona sostanza. Adesso non voglio entrare ulteriormente nel tema, lo faremo, la lascio qua sullo sfondo. Nell'ambito di questo corso, una sociologia delle catastrofi o dei disastri esiste, una branca della sociologia che esiste, che si studia abitualmente e abitualmente, come dire, viene trattata dal punto di vista, diciamo così, organizzativo, cioè di che cosa succede dentro le comunità umane, dentro i gruppi sociali, che cosa porta in qualche modo all'accadere dei disastri dentro le comunità umane. E che cosa accade nelle comunità umane quando accade un disastro dal punto di vista organizzativo, cioè che cosa succede quando si sgretola in qualche modo un ordine sociale costituito, ma ripeto dal punto di vista più o meno strettamente organizzativo. Ed è, come dire, un filone che noi seguiremo, di cui io vi dirò qualche cosa, ma su cui non insisterò particolarmente, perché c'è un altro filone che invece a me è sempre più interessante, nell'ambito anche proprio di questa sperimentazione, che è, diciamo così, un filone più culturalista, cioè uno studio più marcatamente culturale di che cos'è un disastro, di che cosa succede alle comunità umane quando si trovano implicate, quando accade loro un disastro, ma appunto dal punto di vista più strettamente culturale, che significa in qualche modo chiamare in causa profondamente e fortemente la nozione di identità. Se identità è dal punto di vista sociologico, adesso accenno velocissimamente, la risposta alla domanda chi sono io, e io sono, come dire, da un pezzo parte della mia personalità, e questo è sicuro, ma dal mio punto di vista sociologico sono ciò che sono quando sto con gli altri, cioè in questo momento noi sperimentiamo un'identità che non è l'identità che abbiamo quando andiamo al bar a bere il caffè o quando siamo a casa nostra la sera, ma è un'identità molto precisa, quella di studente, quella di docente di questo corso. E quindi è un'identità, diciamo così, più sociale, più collettiva. Che cosa accade agli individui, alle collettività, quando questo senso di identità, inteso anche come senso di continuità del proprio sé, cioè io vado a letto la sera pensando di essere qualcuno e ragionevolmente domani mattina mi aspetto di alzarmi ed essere ancora quel qualcuno, perché gli altri in qualche modo mi rispecchiano una continuità di questa immagine che io ho di me stesso, che cosa accade quando dentro una comunità umana che ci accade un evento inaspettato, inatteso, deflagrante, distruttivo, che mette a repentaglio, che cambia profondamente, come dire, questo senso di identità, questo questa identità, questo senso di continuità nel tempo. Tutto quello che avevo ieri oggi non ce l'ho più, tutto quello che ero ieri oggi non lo sono più. Quello che è accaduto a me e a noi ha cambiato radicalmente la mia e la nostra identità. E questo è a grandissime linee quello che chiamiamo, almeno in un filone sociologico statunitense noto come sociologia culturale, quello che chiamiamo il trauma culturale. Di fronte al trauma culturale le comunità reagiscono in qualche modo, accade qualche cosa, costruiscono, ecco, questa è la parola che useremo molto, costruire, costruiscono in qualche modo delle rappresentazioni di quello che è accaduto, danno un senso a quello che è accaduto e provano in qualche modo a ricostruire una loro identità, sia individuale che collettiva, ed è su questo, come dire, che in qualche modo ragioneremo principalmente. Io pensavo, ma qua costruiamo un po' assieme poi questa corsa, anche in funzione delle aspettative che tutti quanti abbiamo, pensavo quanti di voi hanno già dei rudimenti di sociologia? Ok, perfetto. Nel senso che avete fatto un titolo di studio specificamente sociologico, avete una laurea in sociologia, in qualche esame? All'inizio, in realtà è un corso che occorre a capire come si studiano le reti sociali, non i social network, Facebook, eccetera, perché oggi siamo abituati a considerare solo quelle relazioni lì come se fossero sociali, in realtà quelle sono una minima manifestazione della società. Apprendere gli strumenti metodologici per lo studio delle relazioni sociali e delle reti sociali è utile ad un operatore in condizioni di emergenza, perché fornisce la strumentazione adeguata a ricostruire le reti di relazioni dei soggetti in difficoltà e quindi ad attivare le funzioni, le parti, le zone del network dove si trovano le risorse sociali più adeguate in quel momento per le sue finalità, per i suoi scopi. Quindi molto semplicemente, perché poi la presentazione del programma verrà nell'aula più a fianco, a che cosa serve questo corso? Serve a capire che cos'è il concetto di rete in sociologia, che cosa significa studiare le relazioni e non gli individui. Chiaro che non esistono relazioni se non ci sono individui, ma l'approccio metodologico è sostanzialmente diverso. L'unità di analisi sono le relazioni, non gli individui. Noi serve cercare risorse di idee, quindi dobbiamo avere una lente di ingrandimento sulle relazioni, capire che cosa sono le relazioni, come si studiano, avere dei rudimenti metodologici. Operazione più complessa credo che sia la divisione dal punto di vista tecnico, ma degli strumenti che ci consentono di studiare in maniera minimamente standardizzata la realtà sociale per evitare che le relazioni coincidano con la percezione che di volta in volta ne ha un operatore. Esistono invece strumenti che sono validati, solidi, utilizzati a livello internazionale. Imparare a usare poi questi strumenti e considerate che questa curiosità, io sono abituato ad avere corsi con centinaia di studenti, quindi sono molto stimolato da questa novità, perché mi consentirà che segue il corso di avere anche una parte pratica, cioè provare a costruire uno strumentino per l'analisi, a fare un minimo di valutazione dei dati, a vedere come si interpretano questi dati. È molto semplice, però il discorso è mantenerlo a livello teorico, un attimo invece provare a farlo assieme, secondo me ci sono gli strumenti per poterlo fare, e poi vedere come chi utilizza questi strumenti nello studio delle risorse sociali, delle reti in situazioni drammatiche di disastro, sia naturale che collegato ad azioni terroristiche, lo hanno già fatto. Quindi il programma si chiude con la presentazione di alcune pubblicazioni scientifiche molto, molto leggibili, molto brevi, che però fanno vedere, ad esempio, come è stato studiato con questo approccio, che a quel punto del corso lo studente conosce e sa mettere in pratica. Come è stata studiata la strutturazione delle reti dopo due uragani, l'uragano Katrina e l'uragano Andrew negli Stati Uniti, e poi come è stata studiata la rete delle organizzazioni governative, non governative, non profit, che si è costituita dopo gli attentati dell'11 settembre negli Stati Uniti d'America. Quindi vedere come queste tecniche consentono di capire che cosa ha funzionato, che cosa non ha funzionato, tenete presente che dopo alcuni di questi eventi il governo statunitense ha creato delle commissioni d'inchiesta per indagare sull'organizzazione non sempre ritenuta straordinaria della risposta governativa. Allora cercheremo di vedere come si studiano le relazioni tra gli individui, le relazioni tra le organizzazioni dopo questi eventi. Adesso io mi devo trasferire di là, spero che qualcuno venga, non è che non parlerò da solo, per parlare, ecco, e di là ci sarà la presentazione più dettagliata del programma, quindi saremo di un po' di argomenti. Bene, grazie, buon proseguimento. Ciao. Grazie. Ciao. Grazie. Grazie, anche a voi. L'organizzazione delle strutture comunitarie. Volete qualche minuto? 3-4 minuti per pensarci. Non è una